fammi le mie cose, le mie ripace, piangi delle mie pene, e poi mi taci. Credimi, tu sei stolto e non ti intendo, sei stolto e non ti intendo. Rami le mie catene, le mie rinfacci, piangi delle mie pene, e poi mi taci. Credimi, tu sei stolto e non ti intendo, piangi delle mie pene, brami le mie catene, e poi mi rifacci, mi rifacci. Credimi, tu sei stolto e non ti intendo, sei stolto e non ti intendo. Tu sai che io son fedele al primo affetto, né mai sarò crude al primo getto. Ti amo ancora, né la cagion comprendono, non comprendono, né la cagion sei stolto, sei stolto e non ti intendo, sei stolto.